Già ho capito dove siete andati. Quattro, ma dimmi tu, e poi non c'era nessuno lì. Bene, io non ho detto niente. Però intanto ci hanno fatto spostare il camper, meno male non ci hanno multato. Sono coccoli, sono così. Boh. Ciao Luca. E beh, Luca. Buonasera. E poi così entro io, stasera. Ah, lo sono addormentato, sono svegliato poco fa. Perché sei un po' uomo, ma io lo sapevo che tu eri addormentato. Ma tu mi sa? Eia! Davvero? Ho detto pure oggi ho lavorato. No, non stavo lavorando oggi, oggi ero a pranzo fuori. Ma Marcolino, quando c'è? Eia! Marco, ascolta un'informazione, allora. Io ho fatto un acquisto su eBay. Questo acquisto non è mai arrivato. Strano, ma vero. O mi è arrivato rotto, questa volta non mi è arrivato. Ho fatto un reclamo e il tipo non risponde. Cosa devo fare? Sei stato truffato, sei stato truffato. Con PayPal è pagato, Luca. Sì, mi sono messo già la coda con PayPal. Cazzo, ti chiedo scusa, poi mi ha dato il numero traccia, cioè del codice per tracciare il pacco, non esiste questo pacco. Se non devo pagare il PayPal, devo l'assicurazione, te lo pagano loro. Allora qua dice la tua richiesta relativa a un oggetto che non è stato consegnato e chiuso. Ora ho messo tutto in mano a PayPal. Sì, PayPal te lo deve pagare, se no devono pagare loro, perché PayPal è assicurato, capito? Ma c'è allucinante, si parlano per 45 euro questa gente. E 45 euro a te, 45 euro a te si va a dire a giornata. È successo diverso. E non stavano truffando a mia moglie per telefono l'altro giorno, volevano 1800 rotti lire. 1890,5. E vabbè, 1900 euro buriani, da mia moglie. Cazzo, hanno rubato, deve essere il numero dalla rubrica Lillello, e c'era scritto mamma lì sicuramente. E lì si è fatto massapa a Rubigliuru di mia moglie, si è fatto massare e pure a chi ci dirà manco mare che per io cazzo subito, se no la viene truffata. Lo sai che stanno uscendo queste truffe qui via telefono? Ma la voce già la riconosce del figlio, scusa, non la riconosce la voce del figlio al telefono? No, un messaggio, gli hanno mandato un messaggio per telefono. Non ha parlato, non era vocale, non era a voce, no. Capito, e se no l'aveva riconosciuto. Subito ha giocato il telefono a Lello, a Virilla, e... Ma altro immagina questa gente. Lui mi ha telefonato questa qua, che si capiva che era tipo polacca, roba del genere, e mi ha detto guardi io faccio il prezzo giusto, e ho detto oh, ma dove mi sta chiamando? Da ok, il prezzo è giusto, tutto ridendo in macchina. E allora, dimmi tu. Vabbè, anche a lui hanno fatto la... E un altro scherzo telefonico così. Cazzo, e da poi il numero risultava inesistente, mi. Usano questi numeri fasulli, che non esistono, mi. È proprio immaginare. A me me l'ha spiegato quello della polizia postale, vanno in paesi tipo l'Inghilterra, un'organizzazione, comprano queste schede che ti possono chiamare solo loro, e tu vai a chiamarli, poi le stracciano e dopo che gli hanno dato i soldi non li accia più di... E il numero era inesistente. Meno male che c'ero io, chi sa pensa a Pignissi era Bunelli, ma come ti era fatto andare sul dipu? Stare molto lontana. Cioè sono anni che compro, anni. Sì, è vero che mi hanno fregato i soldi dalla PostePay anni fa. Adesso sto parlando con PayPal. Ma non penso che sia una truffa. Non ti fregano così, capito? E poi il tipo, io ho detto, non rispondete ai messaggi, dopo un po' di giorni. mi viene data la risposta scrivendomi mi scuso che eravamo fuori, e continuavo a non rispondere. Cazzo ti scusi che eravate fuori e non eravate lì, dove cavolo eravate, e adesso non rispondi più di nuovo. Ma che cazzo che mi viene di baloguro? Ah, infatti, sicuramente qualche organizzazione. Io, guarda, ho bloccato un amico, una volta che a me mi hanno rubato 200 euro, ho bloccato un amico che ha telefonato a Roma, ho preso la Canon, la D60 come la tua, invece che pagarla 1200, la sto pagando 700 euro. Ma ecco cosa la stai pagando? Ho detto con Western Union. No, non fa pagare nulla, che ti è una truffa, che ho truffato anche a me, e vendono di tutto, capito? E poi si fanno un bel sito con tutte le stellette del West Seller, eccetera, eccetera. E tu ci credi, capito? Si fanno un'organizzazione che si fa tutto per bene, tu vai a controllare, vedi che gli danno tutte le stellette, eccetera, eccetera, che tutte le recensioni buone. A me mi danno i pigliatori di una ragazza, figureggiate un po' garito, però adesso si staccano il cavolo, se no, perché io ho fatto qualcosa di sicurezza, no? Se non mi telefonano loro a darmi il codice non pagano. Natali, quelli li puoi recuperare, perché a Liliana le avevano preso 150 euro e le avevano bloccato la carta da tale poste, e praticamente gli avevano detto che non si potevano recuperare. Poi tu lo sai che noi abbiamo un ex direttore delle poste come amico, abbiamo detto a lui, ce l'ha fatto recuperare in un mese e ha avuto i soldi. E a me non mi hanno fatto recuperare nulla, ma chi ce l'ha giovato a distruggere dalle poste quella carta e me ne ho fatto un'altra. E più loro mi devono mandare il codice alle poste, se io non inserisco quel codice loro non pagano. Sì, ma quei soldi li avrei recuperati, molto ti hanno rubato. 150 euro, non lo sapevi, mi aveva nel biglia 250 euro. No, non sapevo nulla. Anche a Liviano li avevano presi e li abbiamo recuperati. Mi aveva detto quella delle poste che non si potevano recuperare, invece l'ho detto Antonio e me l'ha fatto recuperare. Ma che cosa stai dicendo? Basta compilare un foglio e te le faccio recuperare io. E vedi, tu sei stato fortunato, ma non tutti hanno quelle conoscenze, capito? Io sono andato e mi hanno detto che mia figlia mi rengo come devo salvare. Perché sono sciacquini, non vogliono impegnarsi a fare nulla. Infatti già lo so. Cazzo, io me ne sono capitato subito di una truffa che gli erano in vendita a Concetta, compreso l'hai. E le si sono trovati male questa volta, anche a piangere ci stava mettendo mia moglie. Cavolo, 1900 euro. Ma dimmi tu. Perfetto. Secondo me trovo una persona così che ci crede e la fregano. Avanti tu, non risponde, avanti Marco. Allora, il problema è che adesso questo qua ha pochi follower, capito? Ne ha pochissimi, tipo 45. E la lascia furando un di ieri. Mi scuso se è, ma tanto non può fare così. Che pagano con pagamenti post PayPal può fregare, non con pagamenti PayPal, capito già? Io quello lo so, te l'ho detto io, si possono recuperare, con PayPal te li fanno recuperare, se succedono queste cose, prima di pagare a lui, deve arrivare a te la roba, se no non ne dai. Lo so, il pagamento prima di arrivare a lui, poi perciò si attacca al tram, 45 euro comunque sono, che sono 40 di display e 5 di spedizione. Poi mi fai una spedizione postale, che io l'ho sempre ricevuta tramite corriere, ma tanto sei deficiente, bro, io le ho sempre ricevuto corriere, sempre arrivate, danneggiate, sempre arrivate. E purtroppo ci sono i delinquenti, Luca. Con internet bisogna stare attenti, ma molto attenti però. Io infatti non compro quasi mai su internet per quello, perché è rischioso. Oh, attivo che stendo la roba. Guarda chi ho sistemato la Natalia. Negativo, ancora no. Abbiamo trovato uno schema dalla Francia, perché non si trova lo schema di quell'apparecchio, capito? Nessuna bugia. Quelli che ho ricevuto dagli amici non si legge nulla. Invece questo che ha trovato dalla Francia, proprio il suo, perché il mio c'ha i componenti vecchi e se non trovi quello schema lì non fai nulla. Proprio il manuale di servizio. Allora, vediamo. Cazzo, mi dispiace, un casotto per quell'apparecchio, perché era omologato, che funzionava benissimo. Cazzo, mi si è rotto proprio loco. A tempo ha fatto arrivare questo. Se no ero senza apparecchi. Infatti era un paio di giorni che usavo questo, era. L'ho acceso quello là e mi si è un ghicinnesco tremendo e niente radio, solo un innesco uscito. E con quello mano truffato, perché l'apparecchio era stato messo a mano, perché il tecnico se ne è accorto immediatamente. Io l'ho comprato per nuovo, capito? E la giubbaca l'isinaio gli avrà giù da Devoni. L'apparecchio me l'hanno dato di quelli manomessi. Deve essere evidentemente lì, hanno manomessi e l'hanno restituito a quello là, in garanzia magari, no? E a me mi l'hanno venduto bandù. Ma la Spagna poi, cazzo, l'avevo preso quello lì. Ancora non siamo attaccato? Nuovo, però dentro gli avevano fatto qualcosa. Anche la piastra c'era messa male, non era messa come doveva essere messa, era storta la scheda madre. Io l'ho preso dall'Italia, ho telefonato, non me ne voleva mandare perché dice che pagamento alla consegna non è facendo, eccetera eccetera, poi l'ho convinto e me l'ha mandato. Vabbè, comunque visto là, a me mi hanno truffato perché se ne è accorto il tecnico che quell'apparecchio era stato manomesso. Già nell'alimentazione c'era un diodo che non era il suo, perché quello li conosce come le sue tasche. Capito? La scheda non era messa nei suoi incassi giusti. La scheda madre, no? Perché? Cazzo, sono saltate due piste che mi ha fatto il ponte lui, però l'innesco non l'ha... Ecco dove l'ha mandato, perché c'era l'affare della colonnina, la presa dove si attaccano i fili della colonnina, mollata, dimmi tu. L'ha risaldata quella lì, gli ha fatto i due punti che ti stavo dicendo, però ancora non ha cavato bene. E adesso si guarderà quello schema lì che ha trovato, lui già li trova. A chi non sa c'è fare lo schema di questi apparecchi, ha compreso? Se c'è componenti vecchi, quei 1969 c'ha come finali, figurati. E vediamo un po' adesso se riesce a aggiustarlo, se no. Cirurampo, cosa vuoi fare? Come? No, si rappano. I finali vecchi. 1969 c'ha come finali. Ma allora era un futtiveccio davvero, amico lo spagnolo. Futtiveccio, guarda che a MOSFET ci sono da 15 anni. 3009 fino a 15 anni fa sono a MOSFET, cioè da 15 anni in poi. E allora era una fregatura vera e propria. Ecco perché non andava bene lo schema nuovo, perché quello era quello del mio EPT 3615C a MOSFET. No, non era a MOSFET, il mio era con il 1969. Con i componenti vecchi, i MOSFET sono usciti dopo. Hai capito com'è il discorso, caro Marco? Infatti è un futtivecchio il venditore, ma tu la recensione gliel'avevi lasciata su eBay? Ehi, mi lamento assai, non ne leggo mai recensione. Cosa? Perché l'apparecchio era nuovo, sembrava che non era aperto assolutamente, eppure era così. Se tu noti dove c'è la scheda, ci sono gli incassi per infilare la scheda. Beh, dalla parte destra era sopra quegli incassi, non era dentro l'incasso. Invece dovevi fare allora una recensione, se ti ricordi, da chi l'hai comprata, a negativa, dicendo che l'apparecchio dopo poco tempo ha dato problemi, e portato da un tecnico si è visto che era una versione obsoleta dell'apparato, capito? Ed era già manomesso, gliel'avrei scritto, gli avrei fatto una bella recensione negativa. Ah, io posso fare anche una fotografia che non mi ricordo dove l'ho comprato. Ah, se no avevo fatto la fotografia e l'avevo fatto vedere pure il particolare che c'è un diodo nell'alimentazione dell'apparato che non è il suo. Perché gira gira, ti faccio la fotografia e te la mando, così non ti dà differenza, Marco. Ve lo dico di fare una fotografia e di mandarmela al tecnico e poi te la mando io a te. Eia, però bisogna sputtanare i venditori truffaldini, capito? Vanno sputtanati. Quindi apparato di versione già vecchia, per non dire obsoleta, e in più era già riparato e venduto come nuovo. E infatti me l'hanno venduto come nuovo, io ero contento, gatta, questo apparecchio funzionava benissimo, eppure vista l'hai che mi hanno truffato. Eia, riprendete. A me mi hanno truffato 200 euro da internet, infatti da privati non compro più nulla, comprerò sempre da Reddit e Book, da privati non piglio più nulla, almeno che lo veda io l'apparecchio e lo prenda in mano io, allora sì, ma se no comprarlo così, fatelo spedire. A me me ne sono arrivati due di futiduri, uno che c'è un Galaxy Saturn Echo che praticamente faceva rumore il coso, l'alimentatore, e hanno cambiato bobine, questo, quell'altro, l'hanno fatto spendere un bellissimo, davvero una gamma di bobine. Io l'ho comprato dal negozio, l'ho comprato nuovo, perché ti faccio vedere scatola e tutto, è arrivato tutto bello impacchettato, eppure era così l'apparato, caro Gianni. Ma infatti quello è un caso, perché solitamente quando li prendi qua in Italia, nei negozi, ti danno la garanzia, se non c'è qualcosa che non va, poi lui ti può dire sempre, quello lì lo puoi aver messo tu, cosa ne so io, l'hai aperto, non vale più la garanzia, capito? Si fa attaccare a quello. Infatti, mi dispiace perché adesso non c'ho più omologato, c'ho quello vecchio omologato, lì vanno andando a Carruccio, visto. Grazie. Quel polmare o cosa cazzo è? Lo so. E dispiace perché è anche un apparecchio che esce bene, capito? Esce molto bene quell'apparecchio. Già lo so che c'è, usciva bene. Io mi auguro che il mio funzioni ancora. E poi basta aprirlo e lo vedi il tuo, se è quello con i finali a MOSFET, perché quelli nuovi hanno i finali a MOSFET, non c'hanno i finali 1969 come il mio, e poi c'è un finale solo il 3009, capito? Il finale per il finale c'è. Però non è quello con più finali, mi. Quello come può essere questo, che c'ha l'aletta di raffreddamento e tutto. Invece il 3009 non è A, ed io è la versione col frequenzimetro, pure con c'ha la presa del frequenzimetro dietro, eppure c'ha quello lì, quel finale lì, il mio, il 1969. Bella. L'avevo fatto da pezzi, da quello che mi stai dicendo, questo capo lascia che abbia fatto da diversi apparati, abbia preso un pezzo da uno, un pezzo dall'altro e abbia composto un apparato. Ha preso un apparato vecchio, uscito tanti anni fa, ha preso, perché quelli a MOSFET è una modifica che hanno fatto dopo, invece di mettere il 1969 hanno messo il 520 MOSFET. Io non l'ho mai aperto, non so manco se sono a MOSFET o come sono, però io l'ho preso in Italia, la verità, l'ho preso in Italia. E il mio me l'aveva fatto prendere Marcolino, dice che lo stavano vendendo in Spagna, infatti mi sembra il sito me l'aveva, il link me l'aveva dato Marcolino. Io l'ho ordinato, è arrivato, tutte cose, e da voi mi dice la fine che ha fatto. Cazzo di quell'apparecchio mi dice di Piazza Villa, che era un signor apparecchio. Però era in quelle condizioni, perché l'abbiamo aperto assieme a quello lì, al tecnico. Come l'avevamo aperto se ne è accorto immediatamente. E l'affare della colonnina gliel'ho fatto notare io, che c'era la presa di saldata, si può dire. Però lui dopo l'ha guardato bene e mi ha fatto vedere tutti i difetti che c'erano nell'apparato. Io manco accorto me ne ero che la scheda madre era storta, messa storta a me. Io non penso che il fabbrica possono fare errori del genere. Infatti, quello è stato messo a mano. Questo qui è il 3009 con il microfono Midland. Io già lo so che c'è il 3009 uguale a mio. In effetti Matilde è quella dove sono. Solo che bisogna vedere se c'è la serie con i MOSFET oppure la serie mia con quello vecchio proprio, col 1969 invece che col 520. Questi sono gli ultimi che hanno fatto qua, questo che c'ho io, così mi aveva fare. Ehi, vabbè, addirittura dove parte l'alimentazione, dove tu attacchi la presa, c'è un diodo dietro che non è il suo, addirittura, figurati, hanno messo un diodo per i cazzi loro. Pronto? In fabbrica non penso che facciano errori del genere. Certo, dovrei essere. No, non possono fare questi errori. Hanno tutto al computer, tutto quanto, c'hanno le schede, eccetera. Non so come sia successo quello. Avanti a chi tocca. Mi sembra che c'era Tonino in parcheggio e poi Luca. Tonino non rispondeva, lo chiamava ma non rispondeva. Luca, ci sei. Lugarie, Marco, avanti. L'appello è da fare, boh. Marco ha da fare, sta facendo cosa? Magari è solo in ascolto, però sta facendo cosa, capito? È un peccato questo apparato, è nuovo. Boh. Stavi nella bocca di altri truffaldini in giro. Guarda, io non me ne sarei accorto, essendo un profano non me ne sarei accorto assolutamente, avrei continuato a usarlo se non mi si fosse guastato e sarei stato sempre convinto che l'apparato era nuovo, perché c'è il blocco dei canali, c'ha 40 canali solo, capito? 4 watt, ce l'hanno venduto per omologato a me, figurati. Ma il tuo le banderà terapia ce le ha? Certo che ce le ha, però c'ha 40 canali solo. Per avere tutti i canali bisogna spostare un jumper. Già lì ce li ha i canali volendo, no? Però per l'omologazione, se gli tiri i watt in più gli metti i canali che non deve avere. Sì, questo qua è omologato lo stesso, c'ha 40 canali per banda, però c'ha banda laterale, FM, AM e banda laterale. Sì, anche questo qua è omologato, non è omologato. Infatti come il mio. Io l'ho preso proprio perché era omologato, perché a me serviva un apparecchio che potevo modulare, ma che fosse omologato, infatti lo usavo sempre, ho 4 watt, li mettevo sopra il coperchio, addirittura un coso di gomma piuma che ho messo qua adesso, capito? Se appoggiavo il rosmetro per esempio sopra, lo potevo appoggiare perché c'era quello, proprio per proteggerlo, gatto. Ma lo sai quanto ci teneva quel 3009? Cavolo, guardavo più bene quello che gli altri apparati, figurati. Perché sono apparati che non trovi più l'altra lì, mi sa che non ne stanno più facendo. E anche quello c'è, io l'ho trattato Va bene, perché mi serviva l'omologato, già lo sai per quale motivo, però sai cosa vuoi fare? Candura niente truffata ora. E c'è una ricezione che micidiale, riceve molto bene, ha una buona ricezione. E infatti, a me piaceva per quello, perché era bello in ricezione, in trasmissione, trasmetteva bene, non aveva il minimo difetto, però mi trovava da Buse Barrado e me ne sono accorto dei difetti quando si è rotto, che mi ha fatto quel difetto, dell'innesco. Vabbè, pazienza Natalia, corri un attimo, un altro, cosa vuoi fare? Se no si bagunza, ti rogere giù un altro, se non ti ricompi si ricambi uguale. Io già ti ricambio, se non riesco a farlo ce lo devo buttare, perché se non riesci a trovare la causa perché si crepa quell'integrato lì, non lo puoi usare, perché come metti l'integrato te lo ribrucia. E magari era difettoso, capito? Magari non c'è nessuna causa, era difettoso solo l'integrato e mettendolo un altro risolvi il problema. No, ma la sorte è che non è così. E più ci sta mettendo un bel di tempo, perché gli hanno buttato quello strumento che serviva proprio per trovare quei guasti lì. Non vorrei che la sua assenza... 400 euro costa quello strumento che gli hanno buttato all'ecocentro. Se l'hanno buttato e lui che l'ha buttato, poi ce l'hanno buttato loro, così è. Oh, hanno sbagliato macchina, hanno sbagliato, invece di andare dove dovevano portare la roba che serviva, l'hanno portata all'ecocentro, e l'altra macchina che dovevano buttare l'hanno portata dove non doveva andare. Dimmi tu, hanno scambiato i mezzi. Ho capito. Ma lui come mai l'ha data a quelli della Lettezza Urbana? No, stava traslocando lui da casa sua. Nel trasloco è successo un casotto. Ah, ecco, adesso ti ho capito. Hanno preso il pacco sbagliato, ci hanno imbinato una cosa che non si doveva rampare e l'hanno rampato. Gli hanno buttato via quello lì, un frequenzimetro professionale che era più grande di un coso, di un 440. Cosa cazzo gli hanno buttato? Un sacco di strumenti gli hanno buttato via. Non vi credo. Io me l'avevo mangiato. Quindi cosa vuoi fare? Se ne è accorto dopo. Quando andando da controllare va via la mondezza invece di avere la cosa che dice via. Infatti lui apparecchi non ne stava più facendo, stava aggiustando roba informatica, capito? Vabbè. Cosa voleva? Non voglio fare nulla adesso, e gli serviva proprio per controllare quegli integrati, quell'apparecchio lì, perché si chiama come dei servizi, mi ha detto. Praticamente gli metteva questo integrato lì e sapeva perché si era bruciato. A mentre a Baeda un po' Garedo l'avrebbe trovato subito il guasto. Sì, è come un test, dai, ti fa il test del guasto, come quello che fanno nelle macchine. Allora, quegli strumenti servono per quelle cose lì. Lui c'aveva tutti gli strumenti, me l'avrebbe riallineato tutto, invece mi ha baito. E cosa fai così? E poi va nulla. Infatti adesso se lo sta costruendo lui uno di quelli lì. Capito, perché quello è un cranio, è lui da qua. Si sente un bel televisore, Natalino, si comprende a lui. Non si capiva se stavi parlando o no, ti sovramodulava, si sentiva andare, vediamo un po' se Marco è entrato. Marco Condo, sì, che è rimasto sul 10, oltre a me Natalino. Sono abbandonato già, sono abbandonato. È che stavo parlando lontano dal microfono e amplificava più la televisione che a me. E gli assenti va a suonare, ma... e non si comprende neanche se mi dici tu. qua, manco si intende se ti vedi no che la televisione, eppure lui la becca malazzo, l'ho dovuto pure abbassare per poter parlare con te. È bello che l'amplifica pure. Ehi, adesso cosa se ne va l'amplificazione, il tuo microfono baurosa, adesso è a due, perché se lo alzo appena appena sente più la televisione che a me, e la televisione è bassissima qua. Questo è più 4. Ehi, anch'io ho fatto la stessa modifica tua. Pompano un bei i microfoni, però purtroppo per causa vuoi che ti faccia? A due l'ho dovuto mettere e parlare vicino, perché se no si sente più la televisione di me. Marcolino Condo, a C6, poi si è rifiutato di darmi uno di quegli apparecchi, quel Marcolino Condo. Io mica lo volevo gratis, glielo volevo pagare, ma lui dice che è affezionato e non c'è nulla da fare. A che apparecchi? Uno di quegli apparecchi che aveva lui, mi ha dovuto ordinare questo qui, perché si è rifiutato Marcolino di vendermelo uno di quegli apparecchi. Mia mai, se mullata addirittura la vite di questo microfono, mi c'è l'asta che si muove, uno o due volte lo stretta, sempre si molla. Sai cosa devi fare? Un po' di smalto di unghie ce l'hai, ti metti lo smalto, si molla più. Sì, è vero, bisogna balli così, tipo blocca filetti, ma non ne ho di smalto, mia moglie no, gliele fanno le unghie, quindi non ne ha di quello smalto lì, eppure glielo chiedo, perché adesso l'ho toccata l'asta e si muove. Ah, va, dimmi tu, uno o due volte l'ho stretta, sempre si molla. Io lo so dove ho imparato, da Masterland a fare quel lavoro lì, a mettere lo smalto delle unghie. Signor Luciano me l'aveva detto, la buonanima. Lo so, però se non ne hai, o blocca filetti o smalto delle unghie, o tinta, che cosa che lo blocchiano. Blocca filetti è specifico, però da voi diventando se non lo voli più. Chi è che ha fatto il mio nome in vano? Chi è? Io l'ho fatto, perché sai che ti posso girare, non lo vedi che ho la mano cazzo grande quanto una palla di fichi d'India? Eia, ero in cucina, stavo preparando il caffè, ho sentito qualcosina. Stavo affrontando qua una specie di bersaglio, vediamo se riesco a farmi arrestare in giornata. Sì, qualche giorno ti metto a te come bersaglio, a vedere se riesco a mirare con la pistola. Te ne tiro una bella sbarriata, te ne tiro. Riesco a prendere il proiettile al volo con la mano o con i denti. E a chi tu sei Superman? E infatti la battuta è quella che volevo fare, tipo Superman. Tali, lei mi sa la risposta a quella figura che mi ha mandato? Negativo, non la stavo guardando, perché ce l'ho nel computer io quella lì. Aspetta un attimo che guardami, ci metto un attimo. Aspetta, che vediamo un po' cosa mi manda. D'ora in poi faccio il campanale. E io pure. Ah, la campana, sì, pure io, ma caspita. Belle quelle campanelle, ah. Non mi ci puoi pensare. Adesso sarebbe stato di andare a casa di Marcolino e fregargli uno di quei 3.009, quelli a MOSFET, così impara. Magari quello con lo smitter azzurro. Davvero, mi ma te le immagini, per colpa sua, mi me l'aveva dato lui il link, me l'aveva dato e mi hanno truffato. Strano, perché non ne aveva uno quel venditore, ne aveva tanti, è come se fosse un rivenditore, cioè è un rivenditore, ma come che ne avesse tanti presi, che ne so, dal grossista piuttosto. Sto notando. Ah, uno di me però, allora c'è Radio Smitter, quel venditore italiano, che sta tuttora vendendo un 3009. Radio Smitter è quel venditore italiano un po' strano, no? Però che ne so io se è quello nuovo, se c'è 30 anni questo apparato. Nuovo, dice, uno disponibile come sempre, c'è la descrizione completa e si abidere. 3009 nuovo, 40 canali MFM USB, eccetera eccetera, vediamo, Ross ci è, vabbè, bisogna vedere poi cosa arriva. Infatti a me mi ha venuto chi su Vicciu, tu pensa, nei così non avevo tolto manco il cielo fan dai tappi, tu figurati, c'ho questo affare di tipo gomma piuma fine fine, no, e l'avevo messo sopra io, cazzo, perché mettevo il rose, metto poi per manografiarlo, ma nuda. Ehi, aspetta che c'è un altro annuncio, versione 2023 addirittura, addirittura. Aspetta un po', che do un'occhiata. Dagli un'occhiata, dai. Te lo vendo io, Natalia, lo vuoi? Aiuto, portalo. Cavolo, questo è diverso, lo sai che ha delle scanalature verso la parte posteriore del coperchio di sopra? Ha delle tipo semi feritoie per far passare l'aria. È come se fosse una versione nuova, vediamo che sia però a componenti classici, spero. Vedi, 7 disponibili, ma da dove? Dall'Inghilterra. E lì ti fanno pagare la dogana, ma lo sai, perché non è comunità europea. Sì, però caspita, se è veramente una versione, la foto è poco dettagliata, molto poco, non vedi niente quasi. C'ha un microfono ambiguo, molto ambiguo, non è quello star classico. Cavolo, aspetta che mi guarda la descrizione. Se non ordiniamolo subito, ecco la fregatura. E poi che l'onfio mi guarda, 26.565.27.91.991.25, questo c'è la canalizzazione inglese. Vedi. E magari sono componenti di quelli piccoli piccoli dentro. Allora Natali, qua dice multinorma, multinorma praticamente significa che hai i canali 40 normali come i nostri, che hai i canali anche inglesi, però mi puzza assai questa cosa, secondo me potrebbe essere uno con la scheda nuova tipo tutto SMD e allora non è più un 3009, cioè è un'altra cosa, capito? Infatti, ma già stai uscendo la scarica, ripeti. Ho detto quanto costa? Allora, il prezzo era, aspetta, 199 euro più 13,99 di spedizione, presumo dall'Inghilterra, devo guardare, però il problema è che l'Inghilterra è uscita dall'Europa, dalla comunità europea, e ti fanno pagare la dogana, cioè, se ti va bene non passa il controllo a campione, ma se ti capita il controllo a campione devi pagare l'IVA, i diritti fissi e non so cos'altro. Aspetta che ti dico da dove è il venditore. Madrid, Spagna, vai, ecca. Che cosa cazzo, ti arriva una lavatrice ed arrivi? No, Spagna, magari è quel venditore, mi. Cosa ne so, tu non te lo ricordi il nome del venditore, Natali? No, se no, cazzo, gli avrei fatto lo scandalo, gli avrei mandato un'email infuocata, che come l'avrebbe presa in mano, gli sarebbe incendiata e l'avrebbe suonato le mani. Ma è strano, io non avevo mai sentito un 3009 multinorm. Adesso cerco su Google Superstar 3009 multinorm, vediamo cosa esce. Vedi un po', ma non è più. Adesso lo aggiusto o ce lo butto? Tanto mi c'ho quel polmar omologato, vabbè che non me lo posso mettere in macchina quello, perché non va a mancare ruccio. Allora, sì, mi portano, tutti mi portano quel sito, però vorrei vedere chi lo... È un Superstar 3009, ok, ma io vorrei sapere chi lo importa, chi lo fa, è la Piernas spagnola o chi altro fa, la CRT, chi lo fa, vediamo. Technology Shop, italiano Technology Shop, vediamo cosa dice. Un attimino, mi vedi, New 2023. Allora esiste, ordiniamolo subito. E ti pari pago 200 euro per un apparecchio fatto tutto in SMD. No, ma questa è una mia teoria, Natalino, non la prova. Metti che abbiano aggiunto una schedina semplice per avere i 40 normali e i 40 inglesi. Sarebbe una figata assurda, eh. Sì, vabbè, no, compare giù più nulla. Non compro e non vendo. Ma non capisci che è come se mi fosse troppo. Cavolo, però mi interessa, voglio approfondire. Scarica immagine. Allora, il microfono è diverso, non è più quello marcato Star che abbiamo noi. Esternamente è uguale, c'è solo queste piccole feritoie in fondo al coperchio per dissipare meglio il calore. Omologato, è omologato, c'è scritto, e lo vende technologyshop.it. guarda, se la scheda è quella classica con i componenti classici, lo sto già ordinando, domani lo ordino, domani no, lunedì magari. Vuol dire c'è soldi da buttare? Sì, praticamente sì. Aspetta, però sto leggendo già cose che mi fanno sudare freddo. Guarda, andata lì. Dice, con sistema Vox attivabile da menu. Menu. Mamma mia, tu, mamma, chissà cosa c'è dentro. Mamma mia. Uno di questi ci sarà dentro. Anzi, Nathalie, ti dirò che se ci fosse uno di quelli dentro, se dentro ci fosse un Anitone 5555, sarebbe una cosa eccezionale. Primo perché va bene, e poi in più c'ha il design del vecchio 3009, è una figata assurda. Quello lo prenderei, vedi? Ma, che vuoi che ti dica? Andà, beh. Cosa vuoi che ti dica? Adesso riesco, vedo se si può bloccare questo, così mi posso omologare Dughiccio. Io mica l'ho aperto questo qui per sapere com'è, ma non mi conviene, no, no. Lo lascio così com'è questo. No, ma questo è... Eia, ma gli altri, chi altro c'è rimasto sul canale? Io e Gianni, tutti gli altri se ne sono scappati. Ma io sono qua, ero in doccia, sono qua, eh. Eia, allora, sto leggendo, sì, programmabile da computer col cavetto. Cacchio, qua è da approfondire la cosa, no? Perché se fosse davvero come l'Anitone nel corpo del 2009, quello ancora lo prenderei. Sì, quello sì. Qua ci sono anche le foto della programmazione. Vediamo cosa dice il programma, che grazie al programma è, se è quello lì. A 12 a 14 watt di piccola. Cosa? Yeah. Che dà da 12 a 14 watt di picco. Quale? Quello, il 3009 nuovo, quello che uscito nuovo. Ah, cavolo. Allora non è omologato. No, no, è omologato, però lo puoi programmare e espandere. Sicuramente anche con dei tasti va. Ma se si può programmare la... sarà di quelle che dici tu, con i componenti piccoli. E così è, da retta a me, che sarà così proprio. Comunque stavi uscendo a tratti già. E forse perché non ho premuto bene, guarda adesso qua in Tutti Forti. Yes, adesso sì che si è uscito bene. E bisogna premerlo forte. Io c'ho il dito delicato. Cioè il dito l'ho fatta. Ma veloce però. Allora, Natali, c'è una foto della scheda. Io vedo che la scheda sia quella della parte che hai adesso. Uguale. No, se ne è compreso nulla. Natali. Oh. Allora, c'è la scheda aperta, SMD, credo che sia la stessa scheda dell'apparato che hai adesso. Questo qui. Eia, qui c'è anche una sigla, PQ811Z, dopo guardo se è quella. Però è interessante, cioè dopo tutto l'aspetto è efficacioso, la cromatura e tutto, però dentro c'ha tutte le opzioni che ha il tuo, credo, poi non so. Comunque se esce bene in radio e riceve bene, adesso mi scarico tutte le foto. Ma cosa devi fare la centura di apparecchi, guarda? Ma ne voglio 100.000 e uno. E più si è rifiutato di venderne uno a me. A te l'immagini che carogna questo Marcolino. Me l'ho dovuto prendere, questo qui mi ho dovuto prendere, se no ero senza apparecchio, anche a piedi sarei stato. Perché il 3009 mi sarebbe guastato e non potevo modulare. Marco, c'è la sindrome da shopping. Diciamo che sono stato fortunato, ho preso una fregatura per quanto riguarda i graffi, però l'apparecchio è perfetto, ce l'ho qualche anno, già no, già. E adesso è nuovo, dai. Grazie a me è nuovo. Siete un amante, mi serve la scatola di questa radio qua. Mi serve la scatola. Oh Luca, guarda che finale monta quello lì. A vedere se è il 1969 o il 520. Chi è andato in gruppo a aprire la bacia, caduto dalla staffa, c'è il magazzino. Ui, come faccio? Adesso no, Natale, come faccio? Dovrei agganciare l'altro, ma una mattina ti chiamo, lo apro e vi dico cosa monta. Adesso mi viene male, Natale. Ma io non ti sto dicendo adesso, ho detto controlla a vedere se è il modello mio o quello nuovo. Questo è uguale al tuo Natale, Superstar 3009, uguale identico, con la scherina argentata, cromata, copertina, è uguale al tuo Natale. Hai arrivata la foto quando te l'avevi comprato. Comunque do un'occhiata, datela, do un'occhiata, non c'è problema. Penso, sicuro lunedì, no, lunedì devo andare a fare un lavoro. Ma penso domenica, dai, domenica rientro presto a casa. Magari ti chiamo, ti dico, ti mando un messaggio e ti dico quale monta. Ehi, ma è più per curiosità tua che mia, per vedere quale apparecchio ti hanno dato a te, perché ce ne sono due versioni, la mia è quella proprio vecchia, perché quelli che montano il 1969 sono quelli vecchi, invece dopo hanno fatto una modifica a MOSFET e montano un altro tipo di finale. Ehi, va bene. Peccato che questo qua non c'ha il dissipatore dietro, perché a mono finale, giusto Marco, se non mi ricordo male, l'avevi detto tu. Ecco, che ti manca la scatola, che te ne fai? Voglio avere la scatola già, la voglio avere, se mai io questo qua ti faccio esempio, me lo voglio bene, me lo voglio comprare nuovo, di pacca, proprio nuovo di pacca, e quello ho capito. Per rivenderlo. Ho comprato, era nuovo, ma ho veduto Eugenio, ma nuovo, eppure l'ho cambiato lo stesso, me l'ho venduto quello lì e me l'ho comprato nuovo, ho aggiunto il sole e me l'ho comprato nuovo più. Ecco, vedi, per quello voglio fare la stessa cosa. Io se lo butto via quello là che non riesco a aggiustarlo, te la do io la scatola. Natale, come vuoi, dai. Mi piace avere la scatola, è bello, c'è una cosa bella, perché ti faccio un esempio, chi ha il 4005 Tornado che è introvabile, quella è introvabile, chi ce l'ha la scatola è bella una cosa così, tutto originale, capito? E io Natale, se lo buttare, se in caso te lo ripara va bene, e se quello te lo puoi vendere per pezzi, se è nuovo, non lo so mai, ci mettiamo d'accordo, me lo fai sapere quanto vuoi, me lo prendo io. O mai qui con loro, mai ci dividiamo i pezzi, mai a Marco gli servono i pomelli, a Gianni gli serve la mascherina, a me mi serve lo smitter, un esempio ti sto facendo. Mettiamo tanta testa e lo compriamo. Qua è nuovo di pacca, non ha un graffio. Capito? A me mi ha fatto solo quel difetto di innescare. E boh. E non esce di radio. Però chissà che a Marasucci di difetto va. Ci mancherebbe. Dove trovi i soldi? Se riesci a ripararlo è bene, se no cosa vuoi ti dico? Ma ti non fai che pensare a. Come ha fatto Gianni, ne ha comprato, non ho rotto a pezzo, te l'avevi pagato già nuovo. E tu era nuovo lo stesso. 50 euro, tutto quanto, poi c'è la staffa, pomelli, il cavetto, c'era tutto, tranne l'apparato, tranne il grezzo, l'apparato. Vabbè, praticamente tutto, coperchi, mascherina, smitter, tutto, autoparlante, c'era tutto, sì. Infatti io dico, perché i vecchi l'ho conservato, sono un po' graffiati, quelli che mi ha mandato quel tipo, e dalle foto non si notava che era graffiato. No, nuovo, non c'è un graffio, la massa dell'invaria. Poi avevo pagato 125 euro. Il mio cazzo, quasi 200 euro l'avevo pagato. E mi dubbio da butti dura. Non ha una garanzia, un minimo di garanzia. Vendo 3.009 euro 150. Tu lo stai vendendo già. E beh, gioventù. Ciao Giulio. Ciao già. Prendete 3.900 perché è molto buono, che va benissimo, superiore al 3.900 addirittura. Ma c'ha un circuito di quelli con lo... microcircuiti c'ha. Io non lo so come ce l'ha perché non l'ho mai aperto, però ti posso garantire che è una meraviglia, funziona, che è veramente buono, buono, buono. No, è inutile stare lì, poi oggi lo sappiamo, anche se dovessero fare il 3.900, perché non lo fanno più, perché io ho cercato, non esiste più, nemmeno in Spagna, lo farebbero oggi con, quelle, con quel tipo di componenti. Guarda che è uscito, che è uscito il 3.900 nuovo, poi a vederlo. Guarda che il 3.900 è praticamente il 3.900, con qualcosa di più, ma è il 3.900, sono tutti uguali. Ho capito, ma hanno fatto il 3.900 tipo nuovo, lo stavamo guardando poco fa, c'è della rete di raffreddamento dietro, eccetera, eccetera. Il microfono è diverso, non è più come quello, come quello che c'aveva prima. E perché questo com'è? No? È uguale. Anche questa le rete di raffreddamento è uguale. Vuoi che ti mando la fotografia? Mi devi dare il tempo per scattarla però. Sì, giù, ma sono due apparecchi diversi. Sono due apparecchi diversi, capito? Gianni, questo è superiore, te lo posso garantire, guarda, non perché ce l'ho io, ma perché è veramente superiore al 3.900. Ciao Giulio. Ciao Giulio, di che radio parli? Giulio? Sì, Marco, avanti. Sì, io l'ho scoperto adesso, no? E quindi se volete cercare o su YouTube o dovunque, su Google cercate Superstar 3.900-2023. Adesso io non ho la conferma che sia uguale la scheda, però sembrerebbe una scheda come quello tuo e come quello mio e come quello di Natalino, capisci a me? Ma certo Marco, ma bisogna anche, siccome fanno parte tutti della serie CRT, del Superstar praticamente, non delle CRT, del Superstar, sarebbero stupidi in fabbrica a fare una cosa che magari è diversa. Se la fanno, la fanno leggermente migliore o simile, o con qualche opzionale in più, tipo che so io, magari la potenza, eccetera, eccetera. Però questo, qualità-prezzo, per conto mio è eccezionale. Io, ti ricordi, avevo chiesto consiglio a te, e mi hai consigliato bene, e sono contentissimo. E anche questo è superiore al 3.900. Però mi serviva perché era omologato quel 3.900 che avevo io giù. Sì, d'accordo, ecco, solo quello già ti fa capire che questo è superiore, indipendentemente da tutto quello che poi ne consegue, è ovvio. Un attimino, volevo chiedere a Natalino, Natalino, il tuo ha il box, l'hai visto nel menu? Sì, c'ha tutto questo. No, perché se il Vox è tuo, vuol dire che la scheda potrebbe essere molto simile, se non quella scheda del tuo, perché mentre io e Giulio il Vox non ce l'abbiamo, nella scheda versione tua, l'ultima uscita, c'è anche il Vox. Comunque su YouTube ci sono i video, uno dura 31 minuti, uno dura 1 ora e 7 minuti, quindi io stanotte c'ho già il film tra virgolette da guardare. Voglio sapere tutto di quell'apparato, perché mi sta già arrapando, e quindi penso che aprirò il borsellino. Vai Giulio. Oh, aspetta un attimo, Giulio. Vado da Marco. Cosa ti volevo dire? Quello primo che avevo io di questo qui, uguale, quello là era una bestia, non era come questo, questo è più contenuto, diciamo così. Il primo che ho avuto di questo qui, quello sì che era una bestia. Quindi di conseguenza, se la scheda è quella, vedo già prefinale e doppio finale, deve avere gli stessi watt del 6.900/Anittone/Intex 5.500, quindi è tanta roba. Tanta roba sì. Comunque questo è dove tutti hanno copiato quello che ho io, praticamente. Praticamente quello che hanno copiato tutti, quello che ho io. Capito? Ah, naturalmente i video sono in inglese, però... però ah no, hai i sottotitoli, li puoi mettere in italiano i sottotitoli. Ok. Ok, bene, bene. This is the un attimo che mi misuro la glicemia che sono sotto controllo. Ehi, infatti vedo che c'è anche marcato Anitone. Stessa cosa, marcato proprio Anitone. Sì, la scheda del mio c'ha quello lì, c'ha. Adesso se ti faccio un paragone, allora se io avessi saputo che era un 3009 con una scheda ex novo sperimentale come era il 48, tu ricordatevi il passaggio dal 48, l'Alan 48 normale all'Alan 48 BSX, il primo era una porcata che noi venivamo a dirlo, proprio ma parecchio nato male. Però se qua mettono praticamente il 5555 dentro uno chassis da 3009, quello va bene perché è una scheda collaudata, vendutissima in tutto il mondo, salvo che non abbia un difetto di fabbrica, cioè saldature fredde, esemplare difettoso, non è male nemmeno. L'importante è che esca limpido di modulazione, quello che chiedo io è quello. Ora ora fidati nel culo. Beh, in effetti è così. Questo qui esce benissimo. Se la scheda di questo ed esce come questo, è una belva. Aspetta che c'è un break, ci ha detto a pigliare in culo, vediamo, avanti il break. E quindi anche a te a pigliare in culo e a passare buone feste. Ciao ragazzi, ci sentiamo, ciao, saluto tutti, chiudo. Ciao Giulio, alle prossime. Ciao Giulio, ciao, ci sentiamo. Natalino, lo sentivi quello che ha fatto, non il break, ha detto a pigliare in culo. No, negativo, non l'ho sentito, c'ho lo squelch. Vabbè, non è voluto venire avanti, gli ho detto a passare buone feste. Gianni, riprendi. Io riprendo, vi lascio perché stanno a farmi la doccia, che poi devo uscire. Chiama gara. Andavè. Buona serata a tutti, buona continuazione. E resto all'ascolto, però vado a farmi la doccia, e se mi sento dal bagno mi ascolto. Ma da quella delle campanelle stai andando? Qui via. No. Devo uscire a portare il cane. Ci sarà da 3 mesi sta apparato almeno sul mercato, quindi è troppo acerbo. Comunque se le recensioni sono buone, buono sapersi, dai. Natali, che c'è? Brucia, brucia, che è iniziata la gascia. Vabbè, la bolletta cara. La bolletta cara. Brucia, brucia. Yeah. Arrivando il treno regionale. Binario 1. Binario, in arrivo. Il treno è partito. Ora, ora, brecco, brecco, tocco, walkie talkie, walkie talkie. Marachino giocattolo, brecco, brecco, ora, ora. C'è nessuno in ascolto? Vai, vai, ok, il treno è già partito, scusate, non c'è nessuno, arrivederci. Che è, vuoi entrare, avanti. Che è, avanti. Hola, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Cambio? Hola, c'è qualcuno qua? Beh, leate e bollami. Fischia, fischia! Fischia, fischia! Dove sei? In montagna. Gabba, gabba. Cosa c'è? Il reattore numero 4, acceso. Come vi senti? Solo! Io se non te le scende la mazza però. Ui ui. A caricarla mi. Quello lì lo so. Ma qual è quella grande? Vedi messaggio? Sì. Con le braccia, cioè, capito? Con le braccia, come se tu con le. Sì, con le mani stessi sollevando quel peso lì. Via, se devi fare quella roba lì ti lascio andare. Così adesso metto tutto a posto che ho fatto una bravonda qua. Ho capito. E adesso mi misuro la glicemia e poi mi faccio l'iniezione. Non c'è problema. Via. Comunque Natali, sono al limite, come forza fisica io a malapena riesco. Se fosse stato appena appena più forte non sarei riuscito a armarla. Ma c'è quell'affare che metti il piede, no? Dentro e tiri, o senza quello. No, già c'è la staffa. Però io non sono allenato, per me è proprio al limite, te ne scende l'anima, però già riesci. Ok, poi lo proverò in campagna meglio, dai, che qua non c'è spazio. Il bello è che non fa rumore. Sì, infatti. Ok, va bene Natali, dai, ti faccio fare. Guarda qua, ho fatto una baraonda tra buste e cartone, ma è tutto a posto, dai. E ci sentiamo anche domani, tanto a meno che non andiamo in campagna, vabbè, nel caso ci sentiamo. Ciao Natali, buon saluto in casa. Altrettanto, ciao Marco, dai. Mi sto misurando quella cosa lì. Ci sentiamo alle prossime, adesso me la segno e via. Buonas noches. Eia, buonas noches, ciao.